Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17, 7 minuti e 5 secondi. Buonasera gentili ascoltatori, da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È una puntata che obbligatoriamente ci porta sui temi della manovra, alla quale dedicheremo quasi tutta la puntata, anche andando a valutare, a capire gli effetti che ci sono sui mercati, tema che, come ovvio e come naturale, non esauriremo oggi, ma sul quale andremo avanti nei prossimi giorni. Vi ricordo tra l'altro in apertura di settimana che Focus Economia non si ferma per il ponte, ci siamo tutta la settimana e giovedì tornerà Sebastiano Barisoni. Allora, naturalmente, che cosa toccheremo? Faremo un punto della manovra proprio dal lato fiscale, cercheremo di capire che cosa c'è dentro, faremo una prima parte più di servizio, se vogliamo, ecco, per comprendere meglio che cosa troviamo all'interno di questo decreto. Sentiremo le voci, sia quella del Presidente del Consiglio Mario Monti, ma anche voci critiche come quelle dei sindacati, ad esempio Raffaele Bonanni, ma anche quelle dell'industria. E poi nella seconda parte verremo a quello che è il tema un po' più politico e più di valutazione generale della manovra, perché si sono sollevate già alcune critiche da parti non politiche e non sindacali su quanto questa manovra sia puntata alla crescita, su quanto ci sia di tagli alla politica. Naturalmente molti dubbi su questi temi. Il numero per intervenire in diretta è sempre quello degli SMS 349-238-6666. Dei mercati vi abbiamo riferito poco fa, ma per chi si fosse sintonizzato solo adesso, un rapido aggiornamento. Milano continua a essere la borsa migliore, più 2,82%, guadagna il FTSE MIB e il FTSE Share il più 2,62%, volano letteralmente le banche, il Banco Popolare guadagna l'11,5%, il Monte dei Paschi il 10,7%, la Popolare di Milano l'8,16%, bene anche il risparmio gestito, come era prevedibile, Azimut più 6,17%, e dal lato dei titoli di Stato il rendimento del titolo decennale italiano è sotto il 6%, al 5,97 per essere esatti, mentre lo spread, ossia il differenziale di rendimento con il titolo di Stato tedesco corrispondente a 10 anni, il Bund, è a 377 punti. Quindi anche al lato dei titoli di Stato sembra tornare la calma, sembra avere efficacia la manovra Monti. Tema che toccheremo tra un attimo, prima le notizie in breve. Oro poco mosso in giornata, a 1744,6 dollari l'oncia in Asia, mentre il petrolio a New York ha aperto il rialzo a 102,33 dollari al barile. Notizia che arriva dalla Cina e che ci sembra interessante, perché anche questo dà la misura di come cambiano gli assetti mondiali. Per la prima volta nella storia i consumatori cinesi hanno prodotto più emissioni di anidride carbonica degli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo generano più CO2 di quelli sviluppati, lo rileva uno studio del Centro Internazionale per la Ricerca su Clima e Ambiente di Oslo. Le cronache dalla crisi, al di là di quelle della nostra manovra naturalmente. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare la Grecia, è quello che ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden prima dell'incontro con il premier greco Loukas Papademos. Tra l'altro il segretario del Tesoro americano Timothy Geithner è in visita in Europa in questi giorni, domani incontrerà proprio il presidente del Consiglio italiano Mario Monti. Arrivano segnali negativi invece per quel che riguarda le banche, perché i depositi overnight delle banche europee presso la Banca Centrale Europea sono aumentati venerdì scorso a 332 miliardi di euro, dai 313 del giorno prima, il livello più alto dal 14 giugno del 2010. E notizie sempre dalla Banca Centrale Europea. La scorsa settimana ha limitato fortemente gli acquisti di bond di paesi cosiddetti periferici. Siamo passati dagli 8 miliardi e mezzo di euro di due settimane fa a 3,6 miliardi. Dell'andamento dei titoli di Stato vi abbiamo detto, restando in Europa abbiamo dei dati interessanti dalla Germania. Il valore complessivo delle esportazioni tedesche supererà questa notte per la prima volta la quota di 1.000 miliardi di euro. Lo ha reso noto questa mattina a Berlino l'Associazione Federale Tedesca per il Commercio all'ingrosso, le esportazioni e i servizi. Nel 2011 prevede che il complesso delle esportazioni salirà del 12%. Nell'anno record, il 2008, il valore si era fermato appena sotto i 1.000 miliardi. Ed è a Parigi invece che si è svolto il nuovo vertice bilaterale tra Nicolas Sarkozy e Angela Merkel. La Francia e la Germania vogliono un nuovo trattato d'Europa a 27 stati membri o almeno a 17 stati membri, ha detto Sarkozy, che ha detto anche che gli eurobond non sono in alcun caso una soluzione alla crisi. Hanno detto anche Sarkozy e Merkel che l'Italia non è paragonabile alla Grecia. La Grecia è un caso particolare. Non possiamo paragonare una grande economia come quella italiana o quella spagnola a quanto è successo in Grecia. Per il resto si conferma l'idea di fondo di questo patto tra Sarkozy e Merkel. L'idea appunto è di rivedere i trattati europei. C'è di oggi anche il rapporto dell'OCSE su crisi e divario sociale. In Italia la diseguaglianza tra i redditi più elevati e quelli più bassi cresce e resta ben al di sopra della media dei paesi occidentali. Nel nostro paese, scrive l'organizzazione, lo stipendio medio del 10% più ricco è 10 volte, oltre 10 volte superiore a quello del 10% più povero. E poi la quota di reddito nazionale complessivo detenuta dall'1% più ricco è passata dal 7% al 10% negli ultimi 20 anni. E quindi, per essere ancora più chiari, questo 1% della popolazione italiana detiene il 10% del reddito nazionale complessivo. Tra l'altro segnala l'OCSE che l'Italia scopre le caste. Che cosa succede? Professori che sposano professori, medici che sposano medici. Questo è quel che dice Stefano Scarpetta, che è vice direttore della sezione lavoro e politiche sociali dell'OCSE. Come in altri paesi occidentali, i ricchi si sposano con i ricchi, dice, e anche il matrimonio diventa un fattore di polarizzazione del reddito. Ma c'è anche la valutazione dell'OCSE sulla manovra. Le misure fiscali affrontano la necessità del consolidamento di bilancio, abbassando il peso fiscale sulle imprese e sulle nuove assunzioni. Danno una spinta alla crescita e all'occupazione, così Angel Gurria, segretario generale dell'OCSE. Ed è proprio da qua che iniziamo, dalla manovra. Manovra anticrisi da 30 miliardi di euro che il Presidente del Consiglio ha definito ieri un decreto salva Italia. 13 miliardi di tagli alle spese, 17 miliardi di nuove tasse. La stiamo dicendo un po' grossolanamente, tra un attimo entreremo nel dettaglio. La commozione in conferenza stampa del ministro del welfare Fornero, insomma se ne è parlato fin troppo, comunque ha parlato di sacrifici sulle pensioni, stop delle indicizzazioni, il sistema contributivo verrà esteso a tutti pro rata. Spiegheremo anche questo nel dettaglio, torna l'ICI in una nuova formula, si chiamerà IMU sulla prima casa, 0,4 sulla prima casa e 0,76 sulla seconda. E via la rivalutazione delle rendite, aumenta l'IVA, ma anche questo è vincolato. Maria Carla De Cesari del Sole 24 Ore, che in realtà qua già da un po' la salutiamo, buonasera. Buonasera. Adesso andremo nel dettaglio, prima ascoltiamo alcune delle parole del Presidente del Consiglio Monti, quelle dette poco fa alla Camera dei Deputati. Non minimizzo forti sacrifici, ma temporanei. Io non intendo né intenderò mai minimizzare l'entità di ciò che chiediamo agli italiani. Si tratta di forti sacrifici,

che vorrei dire a Monti che purtroppo in Italia i sacrifici non sono mai temporanei. Noi su questi temi torneremo più avanti nella seconda parte di Focus Economia. Adesso vogliamo concentrarci sul cuore della manovra da un punto di vista puramente tecnico, se possiamo. Inizierei proprio dalla questione della casa, di questa nuova ICI con Maria Carla De Cesari, lo ricordo, Il Sole 24 Ore. Allora, vi ricordo tra l'altro che potete andare in podcast e scaricarvi la puntata di questa mattina di Salvadanaio, che si è occupata esattamente di questo tema, e troverete sicuramente molte risposte alle vostre domande. Però partiamo da qua e facciamo un punto, Maria Carla. Come sì. funziona? Come funziona? Dunque, innanzitutto, e l'abbiamo ripetuto, lo ripetiamo da giorni, torna l'ICI sulla prima casa. Torna l'ICI sulla prima casa, e cosa significa questo? Significa che sulla rendita catastale aggiornata, così come per tutti gli altri immobili con funzione abitativa, occorrerà moltiplicare, appunto sulla rendita catastale aggiornata, occorrerà applicare il moltiplicatore di 160. A questo punto noi otteniamo il valore catastale, che è, diciamo, quasi la base imponibile, per così dire, la base imponibile della nuova imposta sulla casa, e e per la prima casa, diciamo, il valore ordinariamente potrà essere dello 0,4%. Ci spieghi in maniera più semplice, cioè su un valore catastale di 100.000 euro. Il valore catastale dire? È molto più basso, perché il valore catastale non è un valore di mercato. Diciamo che una casa che ha un valore catastale di 300 euro, 400 euro, noi, che è già, diciamo, aggiornata in base ai vecchi parametri del 5%, dovremmo applicare un moltiplicatore di 160. A questo punto otteniamo la base su cui applicare la nostra aliquota, che per la prima casa dovrebbe essere lo 0,4. Naturalmente i comuni potranno fare, come dire, applicare degli sconti o applicare delle maggiorazioni. Degli sconti che si potranno arrivare fino allo 0,2, oppure delle maggiorazioni e si potrà arrivare fino allo 0,6. Sulla prima casa c'è un'altra questione da dire, e cioè è riconosciuta, diciamo, una detrazione fino a 200 euro. Quindi, come dire, la nostra imposta, se noi dovessimo pagare, che so, un'imposta di 350 euro, in realtà a questi 350 euro dobbiamo defalcare 200 euro, che sono la detrazione, lo sconto, diciamo, che ci è riconosciuto per l'abitazione principale. Naturalmente lo sconto per l'abitazione principale non è applicabile agli altri fabbricati, quindi alle seconde o alle terze case, per cui si applica invece un valore, diciamo, d'imposta molto più elevato, che arriva allo 0,76%. Questo, perdonami Maria Carla, per capire ancora meglio che cosa intendi per moltiplicatore di 160, cosa vuol dire un più 60% rispetto a quello che è l'attuale valore catastale? Sì, è così. In pratica, come dire, noi sappiamo che le rendite che noi troviamo, diciamo, nei nostri certificati catastali sono già stati rivalutati del 5%, già li rivalutiamo del 5%. Per quanto riguarda l'ICI, noi dovremmo rivalutarli del 160. Verrei con te al capitolo pensioni, insomma, forse la questo, cosa che era più... Scusami, questo in attesa che, come dire, venga fatta la riforma degli estimi, che vuol dire, diciamo, rapportare il valore degli immobili ai valori di mercato. Naturalmente il nostro valore catastale oggi non è uguale al valore di mercato, questa è un'operazione molto complicata, che interessa i comuni e che richiede, diciamo, mesi e mesi di lavoro. In attesa, diciamo, della riforma degli estimi, che già era stata, come dire, preparata o comunque paventata dal governo Berlusconi, si applica questo moltiplicatore, che in qualche modo, diciamo, aggiorna il valore catastale, naturalmente lo innalza, e quindi, come dire, ci dà una base imponibile ICI o IMU, come la vogliamo chiamare, molto più elevata. È una botta più forte questa. È una botta più forte. Questa sì, è la sostanza. Questa è la sostanza. Allora, per quanto riguarda invece le pensioni, allora, sistema contributivo contributivo verrà esteso a tutti pro rata. Ci chiedono giustamente gli ascoltatori che cosa vuol dire pro rata e che cosa succederà. Vuol dire che il sistema contributivo pro rata, cioè si applica questo calcolo, questo meccanismo di calcolo che è rapportato, strettamente rapportato ai contributi che noi versiamo dal 1 gennaio 2012. Vuol dire che questo sistema non verrà applicato per coloro che, fino al 31 dicembre 2011 hanno dei versamenti che vengono valorizzati su base retributiva. Il sistema contributivo pro rata vuol dire che questo sistema si applica da qui al futuro. Naturalmente questo sistema contributivo vale solo pro rata, vale solo per chi al 31 dicembre nel 95, cioè alla data della vecchia riforma delle pensioni, aveva più di 18 anni di contributi, perché noi già sappiamo che dal 1 gennaio 96 chi è stato assunto appunto dal 1 gennaio 96 è già in contributivo, quindi come dire non è toccato da questa misura. Chi al 31 dicembre 95 aveva meno di 18 anni ha già una pensione calcolata per quote, parte con il retributivo, parte con il contributivo. Quindi vuol dire che il sistema contributivo viene prorata, viene applicato ai lavoratori che al 31 dicembre 95 avevano più di 18 anni di contributi. Quindi incide sui lavoratori più anziani, questo no, voglio dire. Questa è la sostanza. Allora, sono le 17, 28 minuti e 24 secondi. E ci prendiamo una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo e faremo il punto su altre misure, come per esempio a partire da quelle per le imprese, la questione della deducibilità sul costo del lavoro ai fini per l'IRAP in sostanza, e poi la questione della tassa sul lusso. A tra poco. Le 17:34 minuti e 18 secondi, ci chiedete ancora che cosa vuol dire pro rata. Vuol dire molto semplicemente che chi ha ancora la pensione che fino adesso veniva calcolata col sistema retributivo e non contributivo, sia basandosi di fatto sull'entità degli stipendi, per dirla proprio molto, molto semplice, non su quella dei contributi, fino al 31 dicembre del 2011 andrà con il retributivo e poi passerà il contributivo, e poi le due tranche di pensioni, se così vogliamo dire, verranno calcolate separatamente e poi verranno messe insieme. Questo in sostanza. Per quanto riguarda invece l'ICI e l'IMU, vi ricordo che c'è la calcolatrice del Sole 24 Ore che potete scaricare dal sito per calcolare quanto pagherete in futuro. Ci chiedete anche cosa farà il Sole 24 Ore dopo aver fatto un'edizione speciale oggi. Uscirà di fatto con un dorso dedicato interamente alla manovra. Veniamo agli altri temi, partirei con te dalle imprese, perché si è parlato molto della questione quanto c'è di crescita, quanto c'è di effetto depressivo. Questo dovrebbe essere uno dei provvedimenti per la crescita. Allora, dal lato IRAP, Maria Carla De Cesari, che cosa succede? Ma dunque, dal lato IRAP c'è una correzione dell'IRAP, perché in qualche modo verranno resi deducibili le componenti collegate alle spese per il personale. Questa è una grande, una grande agevolazione per le imprese. Si supera quello che aveva fatto il governo Berlusconi, soprattutto per ovviare anzi alla probabile bocciatura da parte della Corte Costituzionale, che aveva reso deducibile dall'IRAP solo il 10% del costo del lavoro. Il costo del lavoro in questo modo è deducibile dalla base IRPEF e dalla base IRES. E poi c'è l'altra grande il grande rientro della DIT, perché in pratica per incentivare la capitalizzazione delle imprese, in qualche modo verrà remunerato il capitale che verrà immesso nelle imprese, proprio per dare loro capitali. Il tutto è rimandato diciamo, per quanto riguarda i coefficienti è rimandato ad un decreto del Ministero dell'Economia. Comunque questo dovrebbe essere la manovra che la misura che apre, diciamo, la manovra del governo. Allora, veniamo ad altre questioni. Si è parlato parecchio di lotta all'evasione. Allora, da quel lato, come sapete, ci si aspettava una soglia per le operazioni in contanti di molto inferiore a quella che è uscita, sì, poi no, Maria Carlo? Poi si è deciso 1000 euro. Non si sa, quindi, come dire, le operazioni in contanti sono possibili sotto la soglia dei 1000 euro. Probabilmente questa è una soglia che sarà destinata ad essere rivista magari nei prossimi provvedimenti. Comunque questo è fino ad oggi. Tra l'altro, come dire, fatta eccezione appunto per questa soglia, c'è anche, diciamo, una misura che dovrebbe agevolare chi esercita un'attività professionale, gli artigiani o le imprese individuali, che in qualche modo rendono tracciabili tutti i loro movimenti. In questo modo, come dire, c'è la promessa che diciamo tutte gli adempimenti fiscali siano agevolati e siano agevolati per esempio le compensazioni IVA e gli adempimenti fiscali siano in qualche modo tenuti direttamente, sempre per opzione, dall'Agenzia delle Entrate. Questo dal 1 gennaio del 2013. Allora, rimaniamo in temi correlati all'evasione, così andiamo veramente punto per punto. Poi naturalmente vi ripeto, avremo modo di toccare di nuovo quelli che sono i temi della manovra, come naturale, nei prossimi giorni e non solamente nei prossimi giorni, visto che poi ci sarà un processo parlamentare per questa manovra. Vi segnalo nel frattempo che interviene la Presidente degli Industriali, Emma Marcegaglia, che dice è una manovra dura ma indispensabile per salvare il paese e l'euro, e interviene anche l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che dice che Monti deve porre la fiducia per varare la manovra, altrimenti non credo ce ne sia la possibilità, supponiamo che intenda di approvarla. E veniamo ancora a misure correlate alla questione, in parte alla questione dell'evasione, ossia questo bollo di 20 euro sulle auto, no? Per ogni kilowatt in più sopra i 170, e la tassa per lo stazionamento per le imbarcazioni da diporto e aeromobili privati. Su questo ci sono state già proteste, perché si dice, insomma, si rischiano di desertificare i porti, mentre invece io ti vorrei portare su quello che è un tema che è una proposta che è stata avanzata mentre c'era il precedente esecutivo, in particolare dall'Italia dei Valori, questa sorta di tassa sui capitali scudati. Imposta di bollo dell'1,5%, se ne è discusso tantissimo di questo, perché ci sono una serie di controindicazioni. Sì, se n'era discusso quest'estate, perché appunto, come dicevi tu, era stato proposto già quest'estate appunto questa sovrattassa per i capitali scudati. Allora si era detto che in qualche modo lo Stato abdicava, come dire, a quel principio di affidamento che in qualche modo deve regolare i rapporti tra lo Stato e i contribuenti. Ora il governo Monti ha deciso di tagliare la testa al toro e di imporre questa sovrattassa dell'1,50 sui capitali scudati. Diciamo che appunto l'obiezione rispetto alla costituzionalità di questo prelievo, in qualche modo, forse secondo il ragionamento seguito dal governo, è quello di, in un momento in cui si chiedono grandi sacrifici a tutti, probabilmente, si deve chiedere un sacrificio anche a coloro che in qualche modo hanno, in passato dato un segnale di mancata fedeltà tributaria. Vedremo se, questo sarà un argomento in qualche modo decisivo per la Corte Costituzionale. Perché poi da questo lato c'è anche un'altra questione. Allora, se si riuscissero a beccare tutti questi capitali scudati, che sono 182 miliardi comprendendo i vari condoni, e si arriverebbe, i vari scudi fiscali, si arriverebbe a 2,7 miliardi, che è una cifra notevole, che tra l'altro serve a coprire una parte della manovra, no? A coprire una parte della manovra, anzi Monti l'ha collegata direttamente alla possibilità di coprire l'indicizzazione delle pensioni più basse, perché in realtà nei giorni scorsi si era parlato appunto di della che, insomma, non c'erano soldi per pagare, diciamo, l'indicizzazione all'inflazione delle pensioni. To cure. Quindi, insomma, l'ipotesi era che tutte le pensioni non avrebbero avuto indicizzazioni dal 1 di gennaio. Invece, sembra che la misura sia stata mitigata. Le pensioni, una volta l'importo del minimo INPS sono coperte al 100%, quelle fino a 1,5 sono coperte al 50%. Oh, queste cifre sono ancora un po' ballerine, perché in realtà finché non vediamo il testo del decreto finale non riusciamo a capire esattamente come dire, là dove si fermerà l'ago della bilancia. Ecco, però è significativo, tra l'altro, che ieri il ministro del welfare sia, come dire, abbia avuto un momento di commozione. Lei, che è appunto una donna molto, molto precisa e molto anche severa sotto alcuni aspetti, proprio sul fatto di chiedere sacrificio ai pensionati con importi più, con assegni Ai più bassi. pensionati al minimo o quasi. Bene, grazie a Maria Callas Cesari del Sole 24 Ore. Io vi ricordo ancora che domani, oltre che se riuscite a trovarlo, perché insomma è andato veramente a ruba oggi, oltre che sul Sole 24 Ore di oggi, sul Sole 24 Ore di domani trovate tantissimo materiale, un dorso a parte dedicato esclusivamente alla manovra, oltre che ovviamente sul sito internet. Grazie a Maria Callas Cesari. Innanzitutto, la chiusura di borsa, il FTSE MIB ha guadagnato il 2,91%. Di mercati parleremo tra poco. Prima c'è la viabilità e poi ci ascolteremo una prima reazione dal mondo dell'industria. Tra le misure della manovra c'è anche il rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con 300 milioni di euro di tutti i provvedimenti per le imprese. Anna Marino ha parlato con Vincenzo Boccia, imprenditore di Salerno, presidente della piccola industria di Confindustria. Sicuramente sì, perché intanto aiuta un percorso che premia la questione lavoro e non diventa un elemento negativo proprio sull'occupazione. Il secondo elemento è anche l'incremento del fondo di garanzia che era stato tagliato e che ha una dimensione anticiclica e permetterà a molte delle nostre imprese di evitare aspetti legati al credit crunch. È evidente che sono due primi passi, perché c'è da aspettarsi un'altra controtendenza, che è quella di un alleggerimento del cosiddetto cuneo fiscale, che significa più netto in busta per riprendere i consumi, e un alleggerimento più complessivo della tassazione per le imprese, che aiuti appunto a essere competitive nel mondo. Per quanto riguarda questa manovra, c'è anche un'incentivazione all'assunzione di giovani e donne. Sì, questo anche è positivo, perché significa cominciare ad aprire il mondo del lavoro a giovani e donne, in particolare i giovani, che sono la categoria dei grandi esclusi in questo momento difficile di crisi da quello che è il mondo del lavoro. Per quanto riguarda le imprese, quali sono altri punti di sofferenza? Uno in assoluto è la questione di adottare quanto prima la cosiddetta direttiva late payment della Comunità Europea, che significa pagare entro 60 giorni da parte della pubblica amministrazione verso i privati. Abbiamo un debito della pubblica amministrazione verso i privati che ormai è a 70 miliardi di euro. Immaginiamo cosa significherebbe questo flusso di pagamenti regolari verso le imprese e il rispetto chiaramente dei termini per il futuro. La seconda questione del cuneo fiscale, perché aiuterebbe non poco le imprese e il lavoro, e la terza è una riforma più complessiva che guardi allo sviluppo e non solo a questi elementi di una manovra pesante ma indispensabile, ma che guardi alla crescita, perché senza la crescita siamo costretti a fare altre manovre senza costruire ricchezza all'interno del paese, invece ci sono tutte le condizioni per realizzarlo. Com'è il giudizio complessivo sulla manovra? È per la crescita? È di tagli? La manovra è di tagli e di tasse, sicuramente poco per la crescita, inizia un percorso per la crescita, ci auguriamo che la seconda fase delle prossime settimane sia un'attenzione alla crescita altrettanto sostanziale quanto questa manovra è stata invece pesante e indispensabile sul lato tasse. Ci auguriamo inoltre che ci sia anche un'attenzione alla ristrutturazione della spesa pubblica e ai costi cosiddetti della politica. Intanto parla anche la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, dice una manovra pesante però indispensabile, perché se noi non avessimo fatto una manovra di questa entità e di questa forza il paese sarebbe andato a rotoli e probabilmente avremmo contribuito anche ad un problema sull'euro. Questa manovra, proseguito la numero uno degli industriali, ha una quota importante ancora di aumento delle tasse, la pressione fiscale in Italia è molto alta, per cui sarà importante nei prossimi mesi abbassare la spesa pubblica e continuare ad investire sulla crescita. Così Emma Marcegaglia. È il momento della borsa. Paolo Paronetto, Radio Corriere 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque si festeggia sia dal lato dell'andamento dei titoli di Stato sia dal lato della borsa. Sì, esattamente, oggi è stata una giornata positiva soprattutto per Piazza Affari, che è stata di gran lunga la migliore borsa nel vecchio continente, ha guadagnato più del doppio rispetto a Parigi che ha fatto più 1,15, Milano appunto quasi più 3%, i listini hanno festeggiato l'annuncio della manovra economica del governo Monti e soprattutto alcuni dei dettagli previsti proprio dalle misure approvate dal governo. Inoltre poi nel pomeriggio c'è stato anche l'esito, i primi esiti dell'accordo, del colloquio tra il presidente francese Nicolas Sarkozy e la cancelliera tedesca Angela Merkel, che hanno assicurato di avere un pieno accordo tra Francia e Germania in vista del vertice europeo di venerdì, quindi il mercato scommette anche sulla possibilità che vengano messe in campo nuove misure per fronteggiare la crisi del debito europeo. Vanno benissimo, Paolo, i bancari, il Banco Popolare guadagna l'11,6%, il Monte dei Paschi il 10,68%, bene anche Risparmio Gestito, Azimut più 6,33, la Popolare di Milano più 7,28, Unicredit il 5,42, Ubibanca il 5,26. Certo, c'è l'effetto titoli di Stato, ma c'è anche un segnale ben preciso che è arrivato in manovra per le banche. Esattamente, c'è in primo luogo appunto l'effetto spread tra BTP e Bund, che oggi è sceso di ben il 17% e ha chiuso a 375 punti base. Inoltre proprio tra le misure previste della manovra c'è quella di una garanzia di Stato per il debito bancario e quindi potrebbe facilitare l'accesso alla liquidità per le banche nonostante le difficili situazioni di mercato, ne hanno approfittato proprio tutti i titoli bancari. Inoltre ricordiamo che c'è anche un altro aspetto, anche questo europeo, nei prossimi giorni l'EBA, cioè l'autorità bancaria europea, dovrebbe annunciare le nuove stime sui fabbisogni patrimoniali e l'attesa del mercato è che siano cifre inferiori rispetto a quelle annunciate nei mesi scorsi e inoltre i primi rumors parlano di un possibile allungamento nel tempo delle scadenze che sono fissate al momento per il giugno del 2012. Ne hanno approfittato quindi soprattutto le banche che più si troverebbero in difficoltà di fronte a nuove richieste patrimoniali, cioè il Banco Popolare e il Monte dei Paschi di Siena. Quest'ultima inoltre si continua a ragionare su possibili movimenti nell'azionariato, la fondazione si è detta esplicitamente disposta a scendere, quindi si aprono le porte a possibili ingressi di nuovi soci o al rafforzamento di altri soci già presenti. Questo per quanto riguarda anche il Monte dei Paschi come singolo titolo. Oggi, oltre ai bancari, si mette in luce Finmeccanica, un guadagno del 9,8%, l'uscita di Guarguaglini, no? Esattamente, giovedì l'uscita del presidente Guarguaglini, venerdì il titolo subito dopo l'annuncio aveva perso terreno perché aveva guadagnato prima, quindi secondo gli operatori erano realizzi sulla notizia, adesso comunque diciamo che molti investitori istituzionali che avevano posizioni corte sul titolo, cioè avevano venduto i titoli, adesso si stanno ricoprendo, diciamo che si torna a concentrarsi al momento proprio sul business della società e quindi ha perso un po' l'appeal speculativo, appeal che aveva fatto soprattutto perdere terreno e quindi era stato oggetto di speculazione al ribasso nelle settimane scorse in vista del rassetto al vertice. In questo momento prevalgono le ricoperture, quindi il titolo ha guadagnato terreno oggi. Oh, c'è da dire che questa è una giornata nella quale praticamente non c'è nessun titolo in negativo, eccetto ST Microelectronics, e parliamo del FTSE MIB, naturalmente un calo dello 0,9%. Come mai, Paolo? Beh, su ST, in una giornata come questa, appunto, in cui tutti i titoli guadagnano, si tratta di un giudizio da parte di una banca d'affari, in questo caso è la francese Natixis, che ha abbassato la raccomandazione sul titolo a reduce, quindi consiglia di ridurre la propria esposizione su ST. Ricordiamo tuttavia che nell'ultima settimana il titolo aveva guadagnato terreno soprattutto dopo l'annuncio del cambio al vertice della joint venture che la società ha con Ericsson, una società che negli anni ha spesso registrato pesanti perdite appesantendo proprio il bilancio di ST, quindi il mercato con il cambio al vertice ha scommesso su una possibilità di rilancio e quindi il titolo aveva guadagnato. Oggi con il taglio di rating anche alcuni investitori sono passati ai realizzi. Bene, anche se non benissimo in pregilo, più 1,84%, qua ci sono notizie che arrivano da voi, da Radiocor, no? Sì, è stata proprio un'anticipazione di Radiocor, cioè del fatto che il gruppo Gavi ha presentato un'offerta agli altri soci della holding Eagle, cioè Benetton e Ligresti, la holding Eagle che è l'azionista di riferimento di Impregilo con il 29,9%, l'offerta punta a rilevare il restante 66% di Eagle che non è ancora controllato dal gruppo Gavi, quindi il mercato vede questo possibile riassetto all'interno dell'azionariato e quindi mette sotto riflettore il titolo che ho già guadagnato appunto l'1,84%. Infine Premafin, visto che del gruppo Ligresti si parla parecchio in queste ore. Esattamente, il titolo oggi ha guadagnato il 6,6%, ci sono due fattori sul titolo Premafin. Oggi è il giorno in cui è partito il nuovo round di trattative tra le banche creditrici e l'advisor Leonardo per cercare di trovare una soluzione definitiva sul debito della Galassia Ligresti, quindi non solo di Premafin ma anche delle holding a monte nella catena e di controllo. Inoltre in mattinata è uscito allo scoperto un nuovo socio forte di Premafin con il 12,15%, si tratta di un trust delle Bahamas, quindi non è chiarissimo chi ci sia dietro, c'è da dire che il fiduciario di questo trust è un Giancarlo De Filippo, che è anche presidente di una società controllata attraverso scatole lussemburghesi dalla famiglia Ligresti, quindi il primo sospetto è che ci siano comunque sempre dietro gli azionisti di riferimento, e cioè i Ligresti. Sono venuti alla scoperta in mattinata su richiesta della Consob e quindi ovviamente anche questo contribuisce a mettere sotto i riflettori il titolo Premafin. Grazie Paolo Paronetto di Radio Cori, il Sole 24 Ore. In luce oggi tra l'altro anche la Galassia Fiat con Fiat S.p.A. che guadagna il 6,20%, Industrial il 3,15% ed Exor il 2,43%. Un quadro generale su tutti gli altri titoli ve lo diamo tra poco, subito dopo il giornale radio. Le 18, 9 minuti e 10 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia e bentornati alla seconda parte di Focus Economia. Eravamo rimasti su come sono andati anche gli altri titoli, ci chiedete di Fiat, un guadagno del 6,20% per Fiat S.p.A., positive anche Fiat Industrial, più 3,15%, più 2,43% Exor. In realtà non ci sono motivi particolari, di oggi c'è solamente da segnalare, ma naturalmente non è una cosa che abbia avuto un impatto sul mercato, il fatto che oggi la FIOM non ha firmato la richiesta della Fiat di adesione al contratto del 29 dicembre 2010, quello che riprende il modello Pomigliano, e non parteciperà quindi più al negoziato sul contratto, con una coda per certi aspetti curiosa, nel senso che la FIOM non ha voluto abbandonare la sala dove era in corso la trattativa sul contratto e l'azienda e gli altri sindacati sono dovuti spostare, hanno dovuto cambiare sala, e nel frattempo i Cobas, durante una manifestazione di protesta, hanno lanciato uova sulle vetrate dell'ingresso appunto dell'Unione Industriali dove si sta svolgendo la trattativa. Altri titoli di giornata, bene anche Mediaset, un più 4,5%, Buzzi Unicem un guadagno di 4 punti percentuali, d'Intesa San Paolo quasi 4 punti, più 3,85 lo dicevamo prima, più 3,8 per Mediolanum, bene Prismian più 3,7, oltre 3 punti percentuali di guadagno per Fondiaria Sai, ed Enel intorno al 2,5% XOR, come si diceva. Telecom Italia oltre i 2 punti percentuali, così come Atlantia, Saipem e Tenaris, intorno all'1,8% sia Eni che Impregilo, un 1,7% di guadagno per Generali, Terna 1,5%, così come A2A e Pirelli, 1% percentuale di guadagno per Snam Rete Gas, Luxottica lo 0,8, altrettanto Ansaldo e Diasorin e Autogrill, Campari lo 0,77%, più 0,61 Enel Green Power, TOTS 0,5% percentuale di guadagno, Parmalat lo 0,4 e, come già si diceva prima, ST Microelectronics l'unico titolo negativo sul FTSE MIB, un calo dell'1%. Dunque torniamo alla manovra. Come già vi diceva il giornale radio, vi ricordo il numero per intervenire in diretta, 349-238-6666. Parleremo tra poco del tema che ci sottoponete in molti, ossia il tema del taglio dei costi alla politica, e anche l'altro tema, il tema della crescita. Come vi diceva il GR, la CGIL ha proclamato 4 ore di sciopero lunedì prossimo contro la manovra considerata iniqua, un colpo durissimo, dicono, dice la CGIL, a lavoratori e pensionati. Ma protestano anche gli altri sindacati. Sciopero protesta di 2 ore lunedì prossimo per richiedere con forza di aprire il negoziato sulla manovra, in particolare su pensioni e fisco. È l'iniziativa annunciata da CISL e UIL nel corso di una conferenza stampa congiunta. Si parla di attentato al sindacalismo confederale. Sentiamo Bonanni. Chiediamo a tutti i nostri militanti, iscritti e dirigenti, per lunedì prossimo, che le ultime 2 ore di uscita dal lavoro siano un'occasione per sciopero protesta e per recarci presso tutte le prefetture italiane per sentire, far sentire la nostra voce e per reclamare con forza l'esigenza di aprire un vero e proprio negoziato su queste materie. A Roma, naturalmente, saremo sotto il Parlamento e saremo lì con una fortissima presenza di lavoratori e pensionati per le stesse ragioni. Dice intanto la presidente degli industriali, Emma Marcegaglia: capisco la posizione dei sindacati, ma credo che alla fine delle giuste proteste prevalga complessivamente un senso di responsabilità, perché qui o ci salviamo tutti o il paese va a rotoli. Buonasera Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Noi abbiamo una breve pausa per la viabilità, ci ritroviamo subito dopo con te per commentare questa manovra. Nella prima parte lo abbiamo fatto da un punto di vista più puramente tecnico, vedendo di fare una disamina, ovviamente non completa, perché ci chiedete adesso dell'imposta sul deposito titoli. Però non completa, ma ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni. Adesso vogliamo fare l'aspetto, per così dire, un po' più politico, un po' più di senso generale di questa manovra, proprio con te. Ma prima la viabilità. Le 18, 16 minuti e 26 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. Verremo poi più specificatamente alle domande che ci fate, a quelle che identificate via sms come debolezze di questa manovra, ossia il lato crescita e il lato soprattutto costi della politica. Però vorrei prima, da Alberto Rioli, una valutazione generale su questa manovra. Che impressione ne hai ricavato? Che impressione ne avete ricavato al Sole? Ma l'impressione che abbiamo ricavato è che l'elemento tecnico di questa manovra, se va di pari passo con il valore politico che essa ricopre, e non è un caso che appunto dedichiamo a 30 pagine di giornale anche domani all'approfondimento di merito, come probabilmente già sapete, su tutti i vari temi, dalle pensioni alla casa, all'imposta di bollo per l'industria finanziaria e quant'altro. È evidente che il tipo di profondità di azione della manovra del governo Monti è strettamente legato al tipo di risposta che l'Italia ha voluto dare all'Europa, e questo lo ha rivendicato con grande forza il Presidente del Consiglio oggi nel suo discorso in Parlamento. ed è stato evidentemente molto ben apprezzato dai mercati, perché se la giornata si chiuderà formalmente così come la stiamo vedendo ora, insomma, lo spread ha dato un grosso segno di recupero. Sostanzialmente siamo sotto quota 370 e mi sembra che dai giorni bui dei 575 punti abbiamo già recuperato 200 punti, diciamo. Sì. Questo è sicuramente un buon segno. Sì, tra l'altro il rendimento dei decennali in questo momento è al 5,95%, e quindi anche questo è un'ottima notizia. Siamo scesi oltre soglia psicologica del 6, che non è solo una soglia psicologica, è una soglia assai importante anche per il portafoglio dell'amministrazione pubblica, diciamo così, dello Stato pagatore poi di quei rendimenti. E francamente, se fossimo stati con rendimenti tra il 7 e l'8%, io credo che avremmo avuto liquidità fino a febbraio e poi non ne avremmo avuta più. Quindi da qui il peso specifico dell'azione del governo Monti. È evidente che non è una cosa perfetta, che forse il capitolo che riguarda la crescita ancora non è così perfettamente visibile, anche se forse più entriamo nel dettaglio tecnico delle misure più ne capiamo l'impatto. L'abbattimento dell'IRAP, cioè la possibilità di scontare, di dedurre il costo del lavoro dall'IRAP, è una cosa molto importante per ridare fiato alle imprese e agli investimenti. È importante l'esperimento che ci sarà dell'ACE, cioè questo recupero della tassazione degli utili reinvestiti, della detassazione degli utili reinvestiti nel capitale aziendale, un segnale forte per chi voglia credere nella propria impresa, evidentemente. È importante anche l'abbattimento della quota IRAP per chi assume giovani e donne, cioè le parti più svantaggiate in questa fase del mercato del lavoro. È un segnale forte per chi vuole creare occupazione, per chi ha l'occupazione come primo scrupolo e come primo obiettivo per la crescita del paese. Risulta fondamentale poi, non tanto come misura di crescita, come misura di fiducia e di rasserenamento del clima, questa copertura pubblica delle passività delle banche. È una norma cruciale nel pacchetto Monti, indubbiamente, forse è anche passata fin troppo sotto silenzio, ma mettere un ombrello sui mercati, in realtà, Alberto, non è passato un granché sotto silenzio, perché le banche, hai visto che cosa si dice? No, questo sotto silenzio probabilmente nei giornali o nei primi commenti a caldo, sì, eccetera. È evidente che questa è stata una boccata d'ossigeno per tutte le banche terrorizzate dall'avere in pancia assetti tossici o titoli pubblici a rischio o terribilmente a rischio. È un segnale fortissimo che infatti ha avuto un immediato riscontro sui mercati, e anche questo contribuirà a creare quel clima nuovo che possa catalizzare anche nuove forme di investimento e rasserenare poi il clima nella gestione della liquidità fra banche e imprese. Quindi il giudizio sostanzialmente è positivo. È chiaro che bisogna vedere quali sono i prossimi passi attuativi. Domani ci sarà già un CIPE che sblocca 5 miliardi e 2 di opere pubbliche, sono titoli che ho sentiti, il MOSE, la dorsale ionica e cose di questo genere che continuiamo a sentir pronunciare, però speriamo che sia davvero la volta buona, che questi cantieri cantierabili a breve possano davvero continuare nel loro percorso. È importante eccetera. Sentiamo proprio il Presidente del Consiglio sul CIPE di domani. È stata fissata una riunione del CIPE domani con l'obiettivo di mobilitare almeno 5,2 miliardi di euro, sbloccando interventi e accelerando le procedure di attivazione, in particolare in favore di alcune grandi opere ferroviarie, alta velocità e AC Treviglio-Brescia e Terzo Valico dei Giovi, il MOSE e gli interventi di manutenzione straordinaria diffusi su tutto il territorio nazionale di ANAS e Rete Ferroviaria Italiana. Poi si diceva, appunto, non è finita qua, il governo va avanti. Forse siamo in grado di far sentire il contributo audio, ascoltiamolo. Ne siamo sicuri, l'Italia non fallirà. Pensiamo altresì in queste settimane che precedono le festività natalizie, che quando si acquista un bene o un manufatto prodotto in Italia, non solo si sceglie la qualità delle conoscenze e delle esperienze che in esso sono racchiuse, ma si contribuisce a tenere in vita aziende, a sostenere posti di lavoro sul nostro territorio. Il pacchetto di interventi prevede sacrifici, ma anche azioni a sostegno delle imprese, sia in termini di riduzione del costo del lavoro, sia in termini di fiscalità premiale per le imprese che raccolgono capitale. Contiene inoltre misure di liberalizzazione nell'interesse dei consumatori e della concorrenza. Vogliamo creare anche le basi per ulteriori azioni a sostegno della famiglia. Voglio concludere osservando che questo è ovviamente solo l'inizio. Siamo adesso nelle, non dal punto di vista dei carichi, non proporremo altrettante cose ogni 17 giorni, vi posso di questo assicurare. Speriamo che non sia necessario, e questo dipenderà anche da ciò che il Parlamento e dalla tempestività con cui il Parlamento riterrà di dare approvazione, e cioè conversione in legge, dopo tutti i dibattiti che saranno necessari a queste misure. Ci chiedete della tassazione sulle transazioni finanziarie. Il Presidente del Consiglio ha detto che c'è una posizione più aperta in questo momento da parte dell'Italia, mentre invece con Alberto Arioli io voglio capire se secondo lui c'è un motivo particolare per cui non si è andati in maniera incisiva sui costi della politica, al di là delle norme sulle province, pur importanti, perché molti ascoltatori ce lo chiedono. Insomma, c'è ancora il famoso tema della casta che domina. Secondo te ci sono le condizioni politiche perché il governo faccia qualcosa, agisca da quel lato, oppure no? Sì, ci sono le condizioni politiche, quello che si poteva fare per ora è stato fatto, bisognerà fare di più, ma non è nelle facoltà del governo incidere su quello che le Camere possono decidere da soli. Non dimentichiamolo che le Camere sono un potere autonomo e non rispondono, come dire, soprattutto sui meccanismi di regolazione interna, di regolazione retributiva, di quantità di persone, diciamo così, di organizzazione, di rapporti di lavoro e quant'altro, godono di una franchigia, si chiama autodichia, cioè un'autodeterminazione delle proprie norme, quindi non è per decreto che si può dire taglio il numero dei parlamentari o riduco lo stipendio. Il primo segnale di attenzione e di sensibilità politica è arrivato dalla riunione che hanno fatto Fini e Schifani, che ha portato alla revisione della normativa sui vitalizi. Ora vedremo se non si rivelerà poi nel corso dei passaggi tecnici un trucco, ma è auspicabile francamente di no, quindi però la monitoreremo passo passo, c'è una commissione di esperti che sta lavorando all'articolato di dettaglio, vedremo quando uscirà. Per il resto, come sapete, il governo Monti in questo decreto ha provveduto a dare un segnale forte sul settore delle province. Non a caso le province stesse hanno detto che si tratta di una norma anticostituzionale, perché chiaramente le province sono previste in Costituzione. Il fatto di ridurne il numero dei consiglieri a 10, il fatto di arrivare a un percorso che le possa eliminare le più piccole, ridistribuendo le loro funzioni, è una cosa molto audace da un punto di vista istituzionale e sicuramente va apprezzata. Per quel che poteva fare il governo o l'iniziativa legislativa, è corretto tentare di razionalizzare il numero dei componenti delle authority e la loro efficacia e la loro operatività sui diversi settori di intervento, e anche su questo c'è un intervento cospicuo, da 50 a 28 membri complessivamente, è un segnale che ha un suo peso. L'altro viene dalla non duplicabilità degli stipendi degli amministratori pubblici che diventino parlamentari o ministri, no, concluso con l'atto diciamo così, del tutto personale del primo ministro, che ha deciso di azzerarsi lo stipendio da primo ministro e da ministro dell'economia, riservandosi anche di eccepire sul compenso da senatore, ma questo ha detto che è una cosa che va negoziata con il Senato successivamente. Ultima domanda che ti voglio fare, Alberto, riguarda le liberalizzazioni. Allora, c'è qualcosa dal lato delle farmacie con annessa protesta, naturalmente, c'è qualcosa dal lato della liberalizzazione degli orari per quanto riguarda i negozi. Forse anche qua ci si attendeva una botta più forte, insomma, una lenzuolata, per dirla sì, la vecchia maniera. Sì, hai detto bene, giusto. Non è da sottovalutare la cosa che è stata fatta per i farmaci di fascia C, da far vendere le parafarmacie o addirittura nei supermercati. Si tratta dei farmaci che vanno richiesti con ricetta. Quindi, come dire, per la categoria dei farmacisti è davvero un vulnus molto forte, lo immagino, visto che fino adesso effettivamente nessuno sarebbe mai potuto sognare di andare con una ricetta a chiedere una medicina in un supermercato. Chiaramente ci sarà il farmacista anche lì, è evidente, ma insomma è una liberalizzazione che è stata stimata può valere intorno ai 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo, non è poca cosa in effetti. Quello che manca forse è il disboscamento delle tante società finte che agiscono in monopolio, semi-monopolio e che sono nient'altro che una grossa componente del sottogoverno locale. Parlo degli appalti in house, di piccole o medie società partecipate dai comuni, anche piccoli, che gestiscono servizi spesso inutili e che sono semplicemente dei modi per creare dei consigli di amministrazione dove mettere politici trombati. E anche quello, fa parte dei famosi costi della politica da tagliare. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Vi ricordo domani, dorso del Sole 24 Ore, interamente dedicato alla manovra. Io vi ringrazio, grazie a Barbara Bianchi, a Mauro Del Corno in redazione, grazie a Paolo Corleoni in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci sentiamo domani. Dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.